La versione di Oscar Giannino. Eccoci qua, 16:30 primi precisi, siamo in diretta qui dagli studi di Milano Radio 24. Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast della versione di Oscar. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Fin da adesso vi dà anche appuntamento domani dalle 10 alle 12 ai Conti della Belva con Carlo Alberto Cannavale e Maffè, Mario Seminerio, Renato Cifarelli e sottoscritto Rita Fattiguso dalla Cina. Vi dico anche che faremo una stima dei costi delle unioni civili, della riforma delle unioni civili, del contratto di convivenza distinto per eterosessuali e parleremo del buco di Roma, visto che si vota a Roma. Faremo ogni sabato qui per le tre grandi città, le tre maggiori città in cui si vota: domani Roma, poi Torino, poi Milano. Ma questo domani dalle 10 alle 12. Invece di cosa parliamo oggi? Se volete intervenire all'800 24 00 24 per gli sms 349 238 6666. È una puntata che trae spunto dal voto che si è tenuto ieri all'Europarlamento, che ha visto una netta maggioranza contraria, con 546 voti appunto contrari e 28 che non si sono riconosciuti in questa posizione, contrari al riconoscimento da parte dell'Unione Europea allo status di economia di mercato. È una richiesta che la Cina avanza per così dire automaticamente, perché è passato il termine oramai rispetto al 2001 di suo ingresso nel WTO. Fino a questo momento alla Cina non era riconosciuto questo status dell'Unione Europea, e non era riconosciuto sulla base del fatto che la mano pubblica, la pianificazione centrale è ancora parte molto rilevante nella conduzione degli affari economici cinesi, e questo quindi falsa ancora il meccanismo dei prezzi, dell'allocazione del capitale, più del credito nelle mani di banche pubbliche e così via. Da questo riconoscimento dipende una serie di conseguenze molto importanti. Ecco, l'Italia è in prima fila nel richiedere che non venga riconosciuta questa clausola di economia di mercato alla Cina, e che invece restino i 52 dazi che attualmente l'Unione Europea ancora mantiene verso i prodotti cinesi. Sono la stragrande maggioranza delle poco più di 70 misure di tutela daziaria ancora che l'Unione Europea mantiene in piedi. E quindi la puntata è dedicata all'Europa, noi, la Cina e la Germania. Però e la Germania, perché questo no che l'Italia ufficialmente con il suo governo fa, se ne è molto occupato il neo ministro al Mise Carlo Calenda quando era vice ministro al Mise, e anche nei pochi mesi in cui è stato rappresentante dell'Italia a Bruxelles prima di tornare al Mise come ministero, è una battaglia molto pugnace, ed è una battaglia in cui è impegnato in primissima fila l'editore di questa radio, cioè Confindustria, la vicepresidente con delega per l'Europa. È stata confermata vicepresidente con questa delega Lisa Ferrarin, ne ha fatto un vero e proprio cavallo di battaglia. Adesso capiremo perché. Ma perché? Cosa c'entra la Germania, direte voi? C'entra la Germania perché tra i tanti argomenti della martellante campagna politico-mediatica italiana contro la Germania c'è un forte sospetto, cioè che il governo tedesco sia in realtà tentato dal dire alla Commissione Europea: ma no, ci conviene riconoscergliela questa clausola, in ragione del fatto che poi la Germania ha un flusso di export superiore al nostro nei confronti della Cina, e quindi un atteggiamento più accondiscendente nei confronti dell'economia cinese e del Partito Comunista Cinese, del suo leader Xi Jinping, faccia ulteriormente meglio alla Germania. Questo sospetto è fondato oppure no? E nel merito, è davvero così giusta questa difesa del dumping nei confronti della Cina? Immagino che la stragrande maggioranza di voi dirà sì, i cinesi ci hanno messo sul lastrico, bla bla bla. Ok, tentiamo di capirlo meglio. Prima di presentarvi l'ospite e di iniziare a interrogarlo su questo punto: è vero o no che la Germania ha questa tentazione? È vero o no che anche le imprese tedesche sarebbero molto esposte a quelle italiane? E prima di darvi qualche numero sul calcolo che si fa delle conseguenze che avrebbero le imprese e gli occupati nel nostro paese nel caso in cui l'Europa non desse retta al Parlamento Europeo, la Commissione Europea decide, non è il Parlamento Europeo, quindi il voto di ieri è un voto così di indirizzo, ma non ha un valore decisionale. Fatemi dire una cosa, perché stamattina è uscito sono usciti i dati del primo trimestre del PIL, quello italiano è più 0,3%, tutto sommato neanche malaccio rispetto alle attese, ma la sua proiezione annuale fa più 1%, quindi resta molto distante dal più 1,4, più 1,5 che si attende il governo per quest'anno. Ma la notizia positiva è il più 0,7%. Appunto nel primo trimestre della Germania, quindi molto molto meglio delle attese, il doppio rispetto all'ultimo trimestre del 2015. Direte voi cosa c'entra? C'entra per un fatto che per la settima volta su 9 trimestri a far crescere, a far assumere, a svolgere la funzione di traino europeo alla Germania sono i consumi interni, non l'eccesso di export, anzi la domanda internazionale dà un contributo negativo alla crescita tedesca. Se questa roba capita oramai da 7 trimestre su 9, la mia domanda è: la pianteranno gli antitedeschi di mestiere che abbondano nella politica, nei media italiani, nel dire che la Germania ci strangola tutti perché lei cresce solo col suo eccesso di export e è favorita dai bassi tassi eccetera eccetera eccetera, a differenza di noi che invece siamo massacrati per colpa sua? La Germania ha cominciato da un bel po', come vedete, a appunto alzare la crescita dei consumi e la domanda interna, esattamente quello che gli antitedeschi di professione, che negano qualunque nostra responsabilità in una crisi della produttività che è data da 10-15 anni prima dell'ingresso dell'Italia nell'euro, dicono che la Germania faccia. Ecco, glielo chiedevano da tempo ed è da tempo che la Germania lo fa, quindi guardiamo i dati prima di indicare negli altri le colpe di casa nostra. Questa è la mia opinione. Domani ci torneremo comunque sopra ai conti delle belva nell'interpretazione di questo dato. Allora, per capire meglio perché Confindustria, perché la politica italiana siano impegnati molto energicamente contro la concessione di clausola di economia di mercato alla Cina, qualche datarello, per così dire, perché c'è stato uno studio della Commissione europea che ha tentato di quantificare quali sarebbero le conseguenze della concessione alla Cina appunto di questo status di economia di mercato, e una conseguenza molto elevata riguarda in particolare, per via delle sue specializzazioni produttive, il nostro paese, perché il nostro paese purtroppo si vedrebbe gravato, secondo questo studio, del 28% della perdita di posti di lavoro in tutta l'Unione. E il motivo di questa percentuale così elevata deriva dal fatto che di quei 52 dazi che vi ho citato all'inizio, oggi vigenti nei confronti di diversi prodotti cinesi, diversi prodotti da quelli siderurgici al cemento armato eccetera eccetera, a prodotti chimici, quei 52 dazi vedono le imprese italiane essere più o meno il 40% delle imprese italiane tutelate esattamente da quei dazi, quindi noi siamo molto esposti, più degli altri, e per questo sospettiamo che gli altri, a cominciare dalla Germania, a cui parere come è noto decisivo in Europa, non ci segua in questa battaglia. Allora, il nostro ospite per farci capire meglio la posizione tedesca è Udo Gumpel, che è corrispondente in Italia, dall'Italia, scusatemi, per la rete televisiva tedesca NTV del gruppo Bertelsmann. Grazie di essere con noi, Udo. Sì, grazie a te, Oscar, grazie. Allora, la domanda secca da cui partire è: ma tutto questo sospetto dichiarato dalla politica dei giornali italiani nei confronti della posizione tedesca è fondato o no? Ma guarda, io sono un po' sorpreso, ogni volta resto sorpreso da questo sospetto, perché in realtà anche in Germania ci sono due settori industriali molto importanti e nel passato direi trainanti per la Germania, che sono stati danneggiati dalla politica del dumping cinese, perché bisogna dire la verità, non tutti i prodotti cinesi sono fatti a costo di produzione, la Cina ha una politica molto aggressiva proprio sui prezzi, e il settore che anche in Italia è gravemente danneggiato, l'acciaio, poi peraltro anche in Inghilterra, ricordiamo che la produzione industriale dell'acciaio è crollata quest'anno del 37%, che significa proprio un collasso, proprio per la politica dei prezzi dumping. Allora, nonostante che la Germania fosse con la sua industria d'acciaio insieme all'Inghilterra e l'Italia uno dei grandi, dei big dell'acciaio, e dunque anche molto danneggiato, poi danneggiato in un altro settore, quello dei pannelli fotovoltaici. Voi sapete che tanti anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa, quando la Germania cominciò questa grande conversione di politica verde, perché naturalmente dico sempre che la Germania era molto avvantaggiata rispetto all'Italia grazie alla sua posizione geografica più vicina all'equatore. In Germania c'è molto più sole, così loro potevano cominciare prima con la politica dei pannelli solari, mentre sull'Italia sassi, tante nuvole, freddo, neve sui pannelli, che hanno sempre impedito questo passo. Però comunque vabbè, c'era dell'ironia che spero i nostri ascoltatori siano in grado di cogliere. Leggera ironia. Comunque la Germania, che aveva una volta una fiorente, forse la prima in Europa, no, di sicuro la prima industria per la produzione di pannelli fotovoltaici, è completamente quasi azzerato. L'unica azienda che è ancora in piedi e anche partecipa dai cinesi. Dunque la Germania stessa... E infatti con i massicci sussidi annuali sia in Italia che in Germania, sì. Voi con l'Energiewende, noi col conto energetico nazionale dato, sì, al fotovoltaico, in realtà abbiamo finito per nutrire le imprese che fabbricavano i pannelli cinesi. Sì, e però dall'altra parte abbiamo adesso, l'altro ieri, era un altro di quei giorni che la Germania ha fatto 100% del suo consumo di energia elettrica con energie rinnovabili. Dunque ci rendiamo meno dipendenti dai cosiddetti stati canaglia che ci vendono il gas e il petrolio, no? Questo, certo, credo sia anche lo scopo, un obiettivo, di una politica, non solo quello delle minori emissioni, certo. No, non solo delle minori, io stavo pensando in primis addirittura alla indipendenza energetica, e chi in Germania e chi in Italia critica continuamente, cioè tu hai detto bene, i professionisti dell'antitedeschismo, dell'anticrucqueria, e sono quelli che pensano sempre all'autarchia italiana, ma non la si vede, capite? L'autarchia si vede soltanto nella capacità o nel desiderio nascosto, poco nascosto, di stampare moneta, perché tutta questa fascia di economisti è ancora convinta che la ricchezza venga dalla quantità di carta straccia che io tengo in casa, no? Oggi con le fotocopiatrici a colori io mi posso stampare quantità industriali, voglio solo sapere se il mio commerciante sotto casa mi vende ancora il panettiere il suo pane con i soldi che io ho stampato, no? Però questa è una battuta, no? Io penso che in realtà la storia dei dazi, dunque in Germania c'è stata una discussione molto animata su questo punto, perché l'acciaio e il fotovoltaico erano due industrie al fiore all'occhiello della Germania. E anche la chimica tedesca è molto esposta. Sì, però la chimica è esposta molto meno, sì, però molto meno, perché sai, in realtà, e adesso ce lo diciamo a quattro occhi, no? Anzi spero che tu abbia molte, no, più, ecco, orecchie, un po', molte, no? Orecchie, molto, sì, più orecchie, no? Che siano solo le nostre. In realtà la strada per i nostri paesi, l'Italia, Germania, per tutti i paesi europei, non è essere concorrenti della Cina nella produzione di prodotti di massa, ma nella, esatto, produzione di prodotti ad alto valore aggiunto, di altissima qualità, che poi i cinesi stessi comprano a noi. Non è che adesso, voi sapete adesso la vecchia storia delle macchine, no? Voi avete visto 2-3 anni fa i cinesi venivano con le loro prime utilitarie, furono fatti i primi crash test di queste macchine, risultava che chi faceva un incidente in una macchina del genere alla velocità di 20 km all'ora era già morto. Dunque sono sparite le macchine, perché hanno capito che non solo in Italia o in Germania, ma in Europa hanno forse qualche decina di anni di vantaggio tecnologico che bisogna mantenere. Dunque non fare lotte di retroguardia, nessuna linea del chiave contro i prodotti di massa. I prodotti di massa devono essere controllati. Io voglio il pomodoro veramente di San Marzano, non quello finto cinese, dichiarato, imbottigliato, in scatolato italiano. No, io voglio il vero prodotto di qualità, e credo che se l'Italia seguisse questa sua strada, che già nel settore alimentare la sta facendo, no? Si sta mettendo sempre più bollini DOP e cose del genere. Tu con un prodotto DOP, che sia una macchina o un olio di oliva o che sia ligure o umbro, che io preferisco personalmente, che tu puoi mettere 15-20 euro al litro, ma certo se tu prendi invece una qualità scarsissima te lo compri al 1,99, ma è soltanto un grasso liquido colorato, non è quel prodotto. Esatto. Dunque la nostra strada qual è, Oscar? La nostra strada è la qualità, e e anche la storia dei dazi significa che noi proteggiamo, io non sapevo che fossero quasi 40% delle aziende, è una cifra spaventosa, no? Fossero in realtà prodotte, protetti dai dazi, che significa che in realtà l'Italia è un paese ancora semistatale, perché un mercato libero, anche quello grande scambio che molti paesi europei vogliono fare con gli Stati Uniti, è chiaro che bisogna mantenere controlli soprattutto sulle questioni degli alimenti, e nessuno vuole la carne agli ormoni, no? Logico, però su questo ci si trova d'accordo. Allora, non è chiudersi in casa, autarchia, barriere, dazi, che sia la strada per un paese che vuole concorrere al livello top, al premio, no? Certo, se ti decidi di voler fare a concorrenza ai cinesi di bassa qualità, va bene, allora però dovresti forse dire anche al pubblico in Italia che bisogna anche offrire salari cinesi o salari vietnamiti se vuoi stare nel mercato del prodotto di massa. Allora, io ti fermo un secondo, perché la mia impressione, ma posso sbagliare, me lo dici dopo un minuto di interruzione sul traffico, io la metterei così in sintesi dopo aver aspettato la tua articolata risposta, cioè anche la Germania in realtà ha fortissime pressioni, come in Italia, tra l'altro quel 40%, il 40% sono le imprese italiane sul totale delle imprese europee che sono tutelate dai 52 dazi, non è il 40% totale delle imprese italiane. Ma detto questo, ci hai detto, se ho capito bene, che anche in Germania ci sono fortissime pressioni perché la Germania dica anche lei, insieme all'Italia, no alla concessione alla Cina dello status di economia di mercato. Poi, se ho capito bene, questo me lo dici anche tu in realtà la pensi come me, e cioè io penso che sia sbagliato tenere in piedi questi dazi nel nostro stesso interesse, perché continueranno a rappresentare l'illusione che noi siamo specializzati in prodotti che in realtà non sono il nostro futuro, non lo sono, perché noi dovremmo avere la testa nelle centinaia di milioni di cinesi e di centinaia di milioni di persone che grazie alla globalizzazione in tutto il mondo guadagnano livelli di reddito da diventare consumatori della fascia elevata di valore aggiunto che noi e anche voi tedeschi continuiamo a essere capaci e spesso leader nella capacità di farli, piazzarli, distribuirli eccetera eccetera. Io penso che non si difenda il futuro, ma neanche il presente con i dazi. Ma questa è opinione mia, dissento anche dal mio editore. Adesso tu poi dopo, tra un minuto, mi dici se ho sbagliato a sintetizzare in un sì della Germania insieme all'Italia a tenere in piedi i dazi e in un no da parte tua insieme a me, minoritari ovviamente, nel dire ma servono davvero? Non ci avete convinto. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta a 6:48 primi 27 secondi. Il tema è quello della concessione o meno della Cina dello status di economia di mercato da parte dell'Unione Europea. L'Italia e Confindustria si battono come leoni perché l'Italia difenda i 52 dazi che manteniamo in piedi come Unione Europea contro i cinesi. No, la Cina non è ancora un'economia di mercato, soprattutto noi siamo molto esposti, perderemmo molte imprese, perderemmo un mucchio di posti di lavoro. Teniamo in piedi i dazi e diffidiamo un po' della Germania, che non si capisce se la pensa come noi oppure no. Udo Gumpel ci ha detto no, anche la Germania è molto esposta, e io ho fatto una sintesi, quindi ci stai dicendo che la Germania un po' la penserà come l'Italia ufficialmente l'ultimo secondo, ma se ho capito bene te come me non sei molto convinto di questi dazi, o sbaglio? No, io credo che facciano male, perché fa sempre male a non esporsi al vento della concorrenza, ed è questo un problema molto più esteso in Italia che in Germania. In Germania abbiamo parlato dei settori importantissimi che sono contrari a questo, alla concessione di questa etichetta di libero mercato alla Cina, perché sono stati danneggiati dalla politica cinese di dumping, di sovvenzione di alcuni prodotti, che naturalmente devono finire, perché questo comunque resta una delle possibilità. Se un paese favorisce con delle sovvenzioni, che peraltro anche questa è una regola nella comunità europea, può essere sanzionato quel paese e potrebbero essere ritornare dazi di protezione contro un dumping di Stato, che sarebbe sempre più possibile, più facile in Cina. Però credo che alla lunga i nostri paesi, tutta la nostra Europa fa male a chiudersi contro la concorrenza, e noi possiamo vincere, tra virgolette, anche la concorrenza cinese soltanto con l'alta qualità. Con l'alta qualità. Però non hai azzardato un pronostico su cosa deciderà alla fine il governo tedesco. Il governo tedesco deciderà a favore di concedere questo status di economia di mercato, perché la Merkel e la maggioranza delle persone al governo sono fautori del libero scambio tra i paesi. Questo significa mondo. Che sui giornali e sulla politica italiana ci sarà una nuova esplosione atomica di odio antitedesco. Vabbè, vuol dire, rimarrò ancora più solo. Sì, però pazienza, Oscar, perché io credo che noi giornalisti abbiamo il compito di raccontare, come tu fai maestramente, la verità che noi vediamo. Né tu né io siamo azionisti di una di queste società, almeno io non lo sono. Nemmeno io. No? E perciò non abbiamo nessun conflitto di interesse. Io non sono neanche la voce della Germania, io sono nato in Germania, e perciò forse capisco un pochettino delle volte meglio, perché parlo la lingua, sono un giornalista, un corrispondente da tanti anni, conosco questo paese, ancora è mio, e dunque io vedo che anche in Germania c'erano tutte queste resistenze e ci sono anche gli interessi fortissimi, figuriamoci, no? Industria solare, industria dell'acciaio, non sono piccole industrie che hanno, non sono senza lobby nella politica, però. E così come anche la Merkel è per esempio a favore del TTIP con gli Stati Uniti, nonostante che due terzi dei tedeschi sono contrari, si vede che delle volte il governo di Berlino fa politica senza guardare al sondaggio dalla mattina alla sera, non è ipnotizzato dalla perdita di un 2-3% di favore del pubblico. Ma persegue interessi di lungo periodo. Lo so, esatto, che non è esattamente la specialità della politica italiana, diciamo così, ecco. Ma dipende, sì, certo, dipende però anche appunto dalla debolezza dei partiti in sé, no? Perché se tu hai una, anche in Germania i partiti hanno perso molto, diciamo, appeal, hanno perso soci, hanno perso seguito, anche, no, e anche in Germania ci sono forze nazionaliste in crescita che minano i consensi tradizionali, come Alternative für Deutschland, che non è più neanche quello della prima ora, ma è diventato un partito nazionalista anti-immigrati. Sì, sono anti-immigrati, però nascono come anti-italiani, diciamo la verità. No, è così. Ci si dimentica, nascono così. Come anti-italiani, anti-militerani, tranne voler fare qua naturalmente le vacanze in Italia. Chiaro. Però sono anti-euro, perché vedono negli stati del sud soltanto dei parassiti e della comunità, non hanno nessuna visione degli interessi generali. E questo ricordiamo a chi ci ascolta, che la Merkel è la diga esattamente contro questi, cari ascoltatori, mentre molti di voi confondono la Merkel con questi qua di Alternative for Deutschland. È l'esatto opposto. Bravo, perché la Merkel e il governo SPD, socialdemocratici e democristiani, e insieme peraltro a liberali e verdi, e che il nostro pubblico, il tuo pubblico radiofonico che ti ascolta con grande attenzione, può stare anche un po' tranquillo, perché quei partiti che sono a favore anche di una solidarietà europea, ma passo per passo, rappresentano tuttora il 90% dell'elettorato tedesco. Cioè quel successo dell'AfD è stato notato da noi giornalisti, perché la prima volta entra in Parlamento. Ma sai qual è il punto, Udo? Adesso ti dico una cosa che sai meglio di me, perché stai da troppi anni in Italia per non averlo capito. Il problema è che in Italia invece la stragrande maggioranza oramai di chi risponde ai sondaggi, al netto di quale sia il partito che indica di votare, cioè sinistra, destra, sopra, sotto, chiamala come vuoi, in realtà su alcuni temi di fondo la pensa asimmetricamente, ma molto analogamente a quello che pensano quelli di Alternative for Deutschland. Cioè vogliono la chiusura, la rottura, pensano del Nord Europa quello che Alternative for Deutschland pensa del Sud Europa in materia asimmetrica, ma poi per il resto, dagli immigrati alla concorrenza, al valore aggiunto, alla chiusura delle frontiere, alle tutele pubbliche eccetera eccetera, la pensano allo stesso modo. Questo lo so che è molto urticante, cari ascoltatori, molti di voi mi stanno dicendo venduto, vattene in Germania. No, io resto qua a dirlo, però guardate che un po' così, per chi conosce e vede, legge i giornali dei due paesi e il dibattito pubblico dei due paesi, o sbaglio secondo te? Ma no, non sbagli, perché sotto traccia moltissimi politici italiani, credo la maggioranza la pensi come l'AfD in Germania, solo che hanno sanno che in fondo e loro hanno difficoltà di organizzarsi per conto proprio, cioè non hanno la, sanno benissimo l'Italia da solo sarebbe. Allora, io devo dirti, Carodo, no? Che ho totalizzato credo il 95% di SMS e anche di telefonate che nel frattempo sono arrivate contrari alla posizione che abbiamo esposto. Lo sapevo, lo davo per scontato, però io così la penso e cari ascoltatori, su tante cose andiamo d'accordo, ma su quella della concorrenza e dell'apertura no, me ne assumo la responsabilità. Finché sto qua non mi cacciano, è chiaro che oggi mi avreste cacciati quasi 9 su 10, anzi 9 e mezzo su 10. Comunque, appuntamento domani di alle 10 alle 12 con Conti della Belva, parleremo del buco terribile dei conti pubblici e delle tasse a Roma e dei costi dell'Unione Civile che ha appena votato il Parlamento. A domani!